init music, init for you, init your music for you. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Sherwood 97800, Radio San Donà 102.2. Bentornati in nostra compagnia. Se siete stati al CERT, siate pronti per ritornarci dentro alla svelta. Alvise Favotto, buonasera. Il famoso esercito del CERT. Siamo l'esercito del CERT. Questa sera rimpinguato, oltre che dalle nostre labili menti lisergiche, ossia quella di Lele, a questo speaker e Favotto che mi coaudiova. Pensa che ottimo vocabolo. Sì, abbiamo qui con noi gli ABCD. Buonasera ABCD. Buonasera. Ciao. Finalmente degli ospiti pacati. Guarda, molto pacati. Quanta meraviglia. Sembrano i classici orsi sistemati come tappeti negli chalet di montagna. Noi siamo gente seria, eh? Siete gente seria, ma riconoscete questa voce? È un qualcuno che non è nuovo, mi pare, da queste parti. Specie perché noi lo salutiamo una settimana sì e l'altra anche. Bene, stasera salutiamo. Questa sera salutiamo Benedetto Ruggero. Un ciao a un Benedetto. Un saluto a Benedetto. Benedetto Ruggero. Benedetto Ruggero. Oh, finalmente. E ovviamente non parleremo di Benedetto Ruggero questa sera perché ormai abbiamo già speso troppe parole. Volete la parafrasi? Ci ha rotto repalle. Chi ospitiamo questa sera? Abbiamo appunto gli ABCD, che sono il progetto che vede impegnato il nostro Benedetto Ruggero. Un saluto a Benedetto. Sì, sempre un saluto a Benedetto. E Creso. Buonasera, Creso. Ciao, mi chiamo Creso e faccio il DJ. Ed è quello dei due che lavora di più, tra l'altro, secondo me. Questo si diverte tantissimo. Benedetto ride per entrambi, sono divisi. Sì, uno ride, l'altro. Io lavoro, lui ride. Esatto, Creso non ride, si sappia. Del multitasking anche loro ne hanno fatto una soluzione di vita. Esatto, e a questo punto noi andiamo a presentare gli ABCD con le loro stesse parole. Volete dirci qualcosa? Non esprimetevi a lettere quanto le quattro vostre lettere dell'alfabeto. Io direi che parla Creso, perché Benedetto poi riderà nel momento in cui Creso farà una battuta. Io rido già. Vai Creso, è vero che produci dischi negli Stati Uniti? Allora, sì, ho fatto un disco negli Stati Uniti, cioè un remix negli Stati Uniti per un gruppo che si chiama Historix, che fanno rock alternativo praticamente, per cui ho fatto un remix come Creso versus Sir Billy, che è un altro ragazzo che collabora con me su determinati progetti e che è un disco agli antipodi rispetto a quello che faccio con ABCD, che facciamo con ABCD io e Benedetto, cioè tanto pieno e violento è il suono di ABCD quanto tranquillo e mellifluo è il suono del remix che abbiamo fatto per gli Historix. E però è piaciuto, è stato stampato su vinile, è uscito su iTunes e per cui la gente se ne è accorta, Qualcuno forse l'ha scaricato, sì, di questo non ne siamo certi, sicuramente qualcuno l'ha comprato. L'etichetta su cui è uscito è una affiliata della DFI Records, quindi sa il fatto suo. Sì, neanche poco, voglio dire, mica cotica come si suol dire. Sì, ma soprattutto ha stampato un vinile e non ce l'hai portato in omaggio, noi ci sentiamo veramente sottovalutato. No, niente in omaggio. In realtà la dura vita del produttore comporta anche che ho dovuto pure comprarmi il cofanetto, perché i vinili mi sono arrivati un paio in omaggio, però c'era il cofanetto in edizione speciale limitata, quello ho dovuto comprarlo. Questi americani sono proprio dei difolti. Sì, ma infatti se li tengono per loro, capito? Business is business, anche sulla musica. Business is business. Is business. Comunque, hai sentito come si esprime bene in italiano, Favotto? Ha ingurgitato un vocabolario. Alla Zanichelli. Infatti Accademia della Crusca sforna Creso, che viene da noi e ci insegna finalmente a parlare quel po' di italiano che a noi manca. a livello lessicale. Invece adesso io mi chiedo come questo ha fatto a conoscere Benedetto Ruggero. Infatti, però tu Benedetto Ruggero con rispetto ce lo spieghi un po' dopo aver presentato la prima canzone di oggi, e l'hai portata tu perché cioè, è un classico ABCD. Infatti è anche un classico Benedetto Ruggero. Volevo sottolineare questa cosa qui, cioè, è un tuo classico. Tu la metti solitamente in chiusura? No, random, metà serata, a metà, quando la pista è infiammata, come dice Niki Lauda. E se non è infiammata, si infiamma con questo disco, che è Rock da Kashba dei Clash. Ha risposto tutto giusto. E ciò, dai. Tra l'altro, questa canzone è favoritissima dei soldati americani nella missione ai tempi in Iran. No, non sto scherzando. Ti sei informato sul campo? No, i Clash tendono a essere uno dei miei gruppi favoriti da tanto tempo. È un peccato tu non ti sia informato sul campo, perché speravo fosse anche di mine, esatto, anti-uomo. Classico Lady Diana e le mine anti-uomo. E quindi andiamo, prima di prendere le derive assolute che questo programma ha già preso, ad ascoltarci i Clash con Rock the Kashba. Yeah. ce ne freghiamo altamente del fatto che Fabri Fibra ha copiato questo video, vero? Sì, e soprattutto che c'è un armadillo che corre libero così. Ecco, io Fabri Fibra invece lo libererei nei campi di mine antiuomo, dove dovrebbe trovare la caccia ad Alvise Favotto, hai presente? Esatto. Visto che di caccia sempre nel video si parla, con due F4 come Benedetto Ruggero insegna. Esatto, cioè nel mentre qui Benedetto Ruggero spiega a tutti l'aviazione da guerra americana, e è un momento bellissimo. Sì, è stata una lezione tipo alla Carlo Rubbia, noi ti ringraziamo di questo. Anche Rubbia proprio. No, nel video ci sono due F4 Phantom che passano a un certo punto, attraversano il cielo sul video, ma non parliamo di queste cose. Parliamo di cose ben più interessanti, e il gota della domanda interessante ce l'ho proprio davanti a me. Alvise Favotto, sganciala. Allora, una domanda anche concettuale, se vogliamo, come vi siete conosciuti? Come ci siamo conosciuti? Alberto era resident di una serata universitaria a Treviso di successo, diciamo. Si chiamava Ruby. Grazie per l'intervento, no? Con Benedetto Ruggero, che se la ride, se la suona, e l'importante è che anche se la pulisca quando ha finito. Il nostro Barry White. Sì. Vi abbiamo colto di sorpresa. Cioè, poi argomenti di attualità, sì. Cioè, il ragazzo suonava Ruby, hanno pescato da lì anche quella famosa Ruby Rubacuori, che tutti salutiamo e che ci dicono nostra ascoltatrice. Sì, sì, se vuoi passare per di qua a farci due complimenti di quelli sani. Quando sei uscita dalla questura, passi tranquillamente. Io non farò cadere per terra 7.000 euro, ma se vuoi due salami e quattro coppe, però... Te le incarti, casomai. C'è chi sia contenta. Sì, ma forniamo comunque un plexiglass o qualcosa, adesso vedremo un attimo come impacchettare questa cosa, però... Allora, Benedetto Ruggero... Mi stava raccontando di come ci siamo conosciuti. Infatti. Vedevo che voleva partorire qualcosa dalla sua mente perversa. Prego, Creso, continua pure. Io, in realtà, vi racconto una cosa che prima di conoscere Benedetto Ruggero a Ruby, il primo avvistamento è stato al concerto di Justice and New Age. Era quella sera lì che c'era quella malattia che girava, non mi ricordo più qual era. Era il periodo in cui era saltata fuori. No. In realtà era un freddo zio bestia. E basta. O bioparco. Infatti, eccola lì. Una cosa grande. E io e un po' di miei amici abbiamo avuto, tra cui il Buti, noto DJ del Trevigiano e del Vicentino, anche lui lanciato da Ruby ai tempi d'oro. Ah, interessante. Avevamo fatto questo picnic a mezzogiorno a base di salame, pane e birra, attendendo il concerto dei Justice delle 9 davanti al New Age. Che era ingresso gratuito. Bastava presentare una carta e manifestarsi amici nel loro MySpace. Non serviva neanche la quella. Appunto, no. Noi ci siamo accampati là a prendere freddo per il cazzo. Poi io ero già ubriaco alle 6 del pomeriggio, ma questi sono dettagli. Però arrivò Benedetto Ruggero, ancora più ubriaco, con una croce di cartone. Che si era presentato all'ingresso, al posto che con gli amici del MySpace, con cosa? Con la fette di mortadella. Ringrazio ancora quella croce di cartone, perché sono finito sul CD del tour dei Justice. Ah sì? Puoi vantarti di questa cosa? C'è una gigantografia di Benedetto Ruggero. In seconda pagina. Sappi che comunque la tua carriera è in declino, perché passare dal booklet dei Justice qui da noi, insomma, agli studi di MFY non è che sia il massimo. E quindi quando mi annunciarono che ci sarebbe stato Benedetto Ruggero a suonare a Ruby, io ho detto: ma quello là che urlava sto concerto c'è una croce e rideva dopo in coda. Non sputtanatemi, grazie. Va bene Benedetto, tranquillo. Ti stai già arrangiando da solo nel farlo. Ascolta, visto che noi siamo gente mai paga e l'ospite lo trattiamo con la suite, è già tempo del tuo secondo pezzo. Proprio noi non abbiamo una playlist stasera, devi arrangiare. Questa sera l'annuncia credo ICSS Can Say the Cell Sexy. Tra l'altro, se vogliamo dire qualcosa, combo brasiliano in cui ci sono sostanzialmente tre gnocche e un DJ. Le tre gnocche cantano e si dimenano, il DJ mette la musica e fa il lavoro manuale, diciamo, quello che non fa Benedetto Ruggero sostanzialmente. Poi tra l'altro sono stanche di essere sexy, perché è la traduzione. Sì stanche di essere sexy, sono stufe. Ma che stufi che sono. Ma preso da cosa? Preso da cosa? Creso da cosa? Creso da cosa? Da cosa? Da un'intervista a Beyoncé. Bravissimo, vedo che hai studiato e che la tua lettura da bagno è Wikipedia quanto la mia. Noi possiamo andare con ICSS Move. Qualcuno ha qualcosa in contrario, vuole aggiungere aneddoti? No, let's move. Io posso dirvi che è un estratto dall'ultimo album, che è Donkey del 2008. Andatevelo a recuperare, non lo so, devono recuperarselo, Benedetto? Ma anche sì. Move dei CSS. Da San Paolo, Brasile, il famoso quartetto Cetra, Doi Sevarda e che altri Sepetta. Stiamo parlando dei Cansei del Ser Sexy. E questa è MFY Music for You, Radio Share 1, 87800, Radio Sandonà 102.2, in onda in tutti gli orari, che poi vi diremo grazie al sempre pago, al Vise Favotto, chiamato in causa, è la tua ora di fare nuove domande. Continuiamo con i nostri promessi sposi sulle mura di Treviso. Allora abbiamo Creso che lancia la sua affluente chioma di capelli dalle mura medesime e la raccoglie Benedetto Ruggero, che quella sera sta suonando al Ruby. Cosa succede a questo punto? Che io mi accorgo che incredibilmente quell'essere che urlava con una croce di cartone in coda al concerto dei Justice sapeva anche mettere 4 dischi a tempo con un certo gusto, e dico: ehi, ma tu sei anche bravo. E lui ha risposto così. Esatto, lui ha risposto esattamente così. Rendetevi i dialoghi, conto dei dialoghi costruttivi di questa bella gente. Sono dei monologhi di Creso con delle risate random. Praticamente, dopo quella serata lì, ogni qualvolta ci trovavamo sullo stesso posto a suonare, improvvisavamo di back to back, così. Ed è cominciata. E da lì è partita, insomma, ogni posto che si andava, suoni lì, allora dai, facciamo un back to back, allora. Ed è cominciato il progetto ABCD. Un po' alla garibaldina, quindi. Senza Sellino. E vorrei sapere qualcosa di più del progetto ABCD, se possibile, se non vi fa schifo. Tra l'altro presentiamo la traccia di... questa sera, giusto? Dopo aver presentato i tempi remoti e tuttora sospetti, vi esatto. Questa sera di Daniele Terzarioli. Infatti, ma oltre alla mia iniziale c'è qualcosa di sano nella scelta della lettera? La D sta per? Non si può dire. Non si può dire in radio? Non si può dire in radio, fa troppo schifo, o non si può dire punto? Non si può dire, c'è il suo perché, però. Molto probabilmente la D è Dainelli, radioso difensore ex Fiorentina. Ex Fiorentina è tuttora del Genoa. Un altro che se la gioca con Stankevicius per le rimesse lunghe. Parliamo un attimo del progetto ABCD, Stretti, per cortesia. Stretti. ABCD è nato poco fa, ha concretizzato un po' il percorso mio e di Benedetto musicale su qualcosa di un po' di più serio, con la collaborazione di Onion Agency, per cui noi lavoriamo, e vuole far muovere un po' di chiappe sui dance floor qua in giro e su lidi un po' più lontani, e con della musica un po' aggressiva. Diciamo che cerchiamo di trovare un certo perché ad ogni traccia e non fare delle semplici tracce elettroniche che... Per i nostri ascoltatori, se volessimo dare delle coordinate musicali di ABCD, in che campi siamo orientati? Non so, Astolfi e la sua band di lirici, più o meno, non l'orchestra credo. L'orchestra Ruspa. Alberto, che dici? Tony e i Profeti. Diciamo che spaziamo abbastanza, però... Tra Casa Dei... Anche Bruce Lee, Chuck Norris, dopo... Toto Cutugno lo sentirete sicuramente l'influenza su D. Sì, probabilmente c'è anche una traccia T, probabilmente, che verrà fuori a breve. Presumo gli ascoltatori abbiano ben capito che cosa si aspetta le loro orecchie a partire praticamente tra 10 secondi, perché io sto presentando la traccia. E a questo punto è meglio che facciano da sé e andiamo a presentare D degli ABCD. Del progetto ABCD, siamo tornati in studio MFY, visto che si va avanti a colpi di lettere e visto che la continuità musicale è il motto di questa trasmissione, stiamo per arrivare dritti ai White Stripes. Molto bene, White Stripes che aspetteranno un attimo, perché noi ora chiediamo agli ABCD che cosa? Noi gli chiederemo qualcosa riguardante, del generico qualcosa riguardante la loro etichetta musicale, che ci dicevano essere Onion Records. Come nasce il vostro legame con Onion Records? Chi è Onion Records? Cosa fa? Perché le cipolle? Diciamo che Onion Records non è ancora strettamente legata a noi quanto alla nostra famiglia culturale Onion Agency, di cui facciamo parte noi e altri bravi DJ della zona. Sì, ma anche più di DJ, tipo i Laser, che meritano assolutamente. Altri anche da fuori Italia, tipo Laser dal Sudafrica o Icky dalla Spagna. E Onion Records raccoglie un po' di tracce di queste persone. Il lancio dell'etichetta è stato circa un mesetto fa, con 3 EP veramente belli e veramente grossi. E ha delle sonorità molto spinte, molto tendenti all'elettronica mescolata con suoni metal e forti attitudini rock, e è sicuramente interessante, sicuramente darà il suo contributo alla scena di dancefloor pesante che si sta sviluppando da queste parti in questi anni. Sono downloadabili? Si possono scaricare da qualche parte? Si possono comprare da Beatport sicuramente. E a questo punto andiamo a parlare della scelta musicale di Benedetto Ruggero, perché che decide di battere forte la testa sul tavolo, non si capisce quale motivo, di presentare i White Stripes, un gruppo che a me personalmente piace. Io cerco di trovare un compromesso tra ABCD e MFY. Infatti ti ringraziamo tantissimo di questo, mi dai l'occasione di dire che questi bei fiori, non parlando di ABCD perché ovviamente la schifoseria estetica è predominante in per questo studio, per fortuna non ci vedete ma ci sentite e basta, questi bei fiori dei White Stripes hanno fatto il concerto più breve della storia, hanno suonato per un secondo davanti a 500 persone, non chiedermi dove, però lo so. C'è stato un precedente storico abbastanza famoso in Italia, che è un concerto degli Schiantos, in cui loro si presentano sul palco, fanno una pasta asciutta e se ne vanno. Ottimo. Si sa anche il sugo? Penso fosse una puttanesca da un po' da poco, da 4 soldi, puttanesca da, al salto, con il sugo del Lidl, esatto, più o meno. Però non so, cioè non ho approfondito nella teglia. Dovresti diciamo documentarti di più, esatto. Sappilo, perché dovevi far scarpetta. Invece si va con The Hardest Button to Button dei White Stripes. Questo è un estratto al loro primo album del 2003, che si chiama Elephant, del quale è stato tutto lo strascico, come ha fatto ben onomatopeicamente il buon Alvise Favotto, pop da Seven Nation Army. Noi fortunatamente proponiamo, grazie a Benedetto, un'altra traccia che è per l'appunto The Hardest Button to Button. Da Detroit, With Love, The Hardest Button to Button, dei White Stripes, siamo tornati in studio, Music for You, Radio Share 97.800, Radio Sonora 102.2, Alvise Favotto, è il tempo dei contatti. Caro ascoltatore di Music for You, governi quotidianamente una sega circolare e a Natale vorresti un calendario porno soft? Chiamaci allo 0421 560993 o mandaci un fax allo 0421 560994. Io faccio i mesi estivi, Daniele gli invernali. Il febbraio siamo in coppia su un divano. Prego, Benedetto Ruggero, vuoi dire qualcosa? Hai alzato la mano. Volevo uno spazio sul calendario. Ai dicembre esci da un pacco regalo vicino ad un albero. Creso, vuoi qualcosa? Un mese a caso. Il calendario con Benedetto Ruggero. Oh. Che manie di protagonismo. www.musicforyouth.wordpress.com è il nostro blog dal quale scaricare questa puntata in streaming, MP3, podcast, feeder, SSD, iTunes, tutto quel cavolo che volete. Abbiamo una pagina parallela anche ovviamente su Radio Sherwood e il nostro schifoso spazio B-side su musicforyouth.tumblr.com. La diatriba su Tumblr non ce la giochiamo questa puntata perché sennò andiamo lunghi. Se invece volete trovarci in Facebook, il gruppo è Music for Youth On Air Youth. Per i non anglofoni è sempre YOUTH. A questo punto, visto che c'è un grande revival degli anni 90, noi abbiamo pensato di proporvi gli House of Pain, i Casa della Pena, che hanno fatto questo singolo chiamato Salta in Giro, Jump Around, che spopolava e ancora spopola nelle moderne balere. Eh beh certo, dal 1992 che questi bei ragazzi inglesi ci fanno saltare in giro. Esattamente, io se posso riportare una mia esperienza personale, ho creduto per buona parte della mia adolescenza che il ritornello dicesse John Brown, John Brown. Capisco la mia deficienza, a questo punto possiamo mettere il pezzo. Sì sì, assolutamente sì. Io, se vuoi, la solita notina pressoché storica te la metto. Il cantante Everlast, che non è lo stesso del famoso gruppo, ha avuto anche una sua carriera parallela e ti dico che ha dato vita ad un gruppo che si chiama La Cocca Nostra. E con questo io posso anche far partire il pezzo per la soddisfazione di Benedetto. Musica colombiana, immagino. Esatto. Jump Around dei House of Pain. Questa è Music for Youth. Up and around, then buck, buck, get down. Put out your head and then you wake up in the dawn of the dead. I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. Spitting out lyrics, homie, I wet ya. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down. Jump, jump. Io invece pensavo a Everlast delle magliette. Invece no, Benedetto Ruggero, mi dispiace. So che è un tradimento per te. Comunque siamo tornati, questa è Music for Youth. Radio Sandona 102.2, Radio Sherwood 97.800. Bentornato Favotto. Bentornato Terzariol, bentornati ABCD, è sempre bello vedervi. Gli ABCD poi, continuando con la vostra storia, spopolano qua e là nei vari locali d'Italia. Ci dicono che piacciate molto in quel di Milano. Come ABCD ci siamo spostati... parecchio. Abbastanza, direi. So di una trasferta in quel di Bressanone. Ma è meglio non parlare di quelle trasferte. Un tasso alcolico troppo elevato. Piumone che... di quelli che nascondono tutto sopra le vostre teste, immagino. Soprattutto delle taniche di benzina, ci dicevate. Sì, della comoda nafta dietro le vostre teste, vero? Bottiglie di Jack Daniels in console. Benedetto Ruggero che alle 4 dice: sei troppo ubriaco, è meglio che vai a casa. Ovvero torni in hotel. E questa redenzione per Benedetto Ruggero, posso assicurare che è una delle poche che si sono viste nei suoi quanti anni di vita, purtroppo per la popolazione mondiale. Non proprio dirlo. Se vuoi. Intorno all'anno, al quarto di secolo. Diciamo. Per le tue fan invece? Sempre 18 per le fan. Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. Non creiamo un clima di tensione. Va bene, va bene. Potremmo sentirci quasi in paradiso, come suggeriscono i buoni Cure. Beh, in questo studio dici? No, insomma. Vabbè, dicevo così. Io sto sudando, Sì. Cioè. All'inferno la compagnia è buona, ma il caldo è troppo, si sappia, ma in paradiso noi non abbiamo sicuramente conoscenti. Esatto, e comunque dopo questa che probabilmente è una pubblicità di delle mutande, andiamo a presentare il prossimo pezzo dei Cure che ci ha portato Benedetto. Perché? Perché ti piace molto. Ma io ho un po' una passione per loro, ma io direi che evitiamo i soliti discorsi al gruppo, mi piace così parlare della storia del gruppo, magari raccontiamo qualcosa di te e dei Cure, no, quando no, avete scondiviso il palco. La chicchetta poco conosciuta che sì, magari tanta gente non sa, del cantante che ha fatto un disco house con Junior Jack. Davvero? Lo sapevate? No, ma sì. Tra l'altro mi pare l'ultima chicca più o meno di questa rilevanza è che è appena stato buttato fuori un singolo con la sua voce e non mi ricordo che DJ, che però non è Junior Jack, che avete appena nominato. Junior Jack, il disco era ancora del 2004. Ecco, no, questa è proprio una cosa fresca fresca, per cui andatevela a cercare in qualche blog, non chiedete a me, che notoriamente dovrei essere comunque il fornitore di queste notizie, però ti so dire, caro Benedetto Ruggero, e pensavo ti riferissi a questo, che il 25 maggio 1980 l'intera band è stata arrestata dalla polizia olandese per aver fatto il bagno in una spiaggia con il divieto di balneazione. Mentre... Gentile ascoltatore, secondo voi Daniele sta leggendo? No, però fa voto, c'eri tu spiaggiato, me l'avevi rilevata tu questa notizia in realtà. Sì, in realtà sì. Che eri disteso lungo con una... Sì, con una ballina bianca e la cavalcavo. Salutiamo tutti alla i ballina. Mammiferi spiaggiati. Sì, infatti. Sì, le orche. Un saluto alle orche, ma soprattutto ai Cure stessi. Questa è Music for Youth. Per voi vi dedichiamo Just Like Heaven. Dall'album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, era il 1987, questa era in Cure con Just Like Heaven. Te la dedico, Favotto, bentornato. So kiss me. E questi erano i Sixpence Non The Richer, vero? Ho ragione, esattamente. Mi pareva ricordare. Buono, quelli che hanno stuprato Where She Goes dei Laz. Sì, infatti, una delle cose peggiori che potevano fare nella vita. Però, proprio vabbè. Toccarmi i Laz e coverizzarmi Where She Goes è una cosa che non potete fare, perché ricordate che sono da 90 e 90 è violenta per chi non si accontenta. Prego, andate sono avanti. Sono di Musile è ostile. E beh, come croce è feroce e tutta un'altra serie di cose. Allora, no, noi torniamo a parlare del vero motivo per cui gli ABCD sono presenti oggi in studio. Ma io avrei parlato prima di Lady Gaga. Vogliamo parlare di una possibile collaborazione tra Robert Smith dei Cure e Lady Gaga? Sì, c'è stata anche questa cosa nell'universo musicale mondiale. Esistono anche purtroppo tali abomini. Alle porcate non c'è mai fine, e il fatto che gli ABCD siano in studio con noi ce lo dimostra. No, grazie. non voleva offendere, quanto Alberto, cioè... si sta intesendo, eh? Eccolo. Infatti, e anche probabilmente il prossimo lavoro degli ABCD sarà una porcata. Infatti io volevo arrivare qui, se mi viene concesso un minuto di serietà. Sì, guarda, un minuto io non te lo darei neanche a pagarlo oro, però un 40 secondi te li do. Gli ABCD sono in studio oggi con noi perché stanno per licenziare un lavoro sulla lunga distanza, caro il mio terzario. E cosa mi licenziate? Non avete sensi di colpa? Siete andati al sindacato? E sono più di 5 persone. Prego, continuate. Un disco un po' eretico, allora, no? Sì, esattamente. Di cosa si parla? Di un incrocio tra un disco metal, ma metal proprio bello pesante, e un disco elettronico. Dalle avide menti di Benedetto Ruggero e Creso, che cosa non vuoi partorire? Creso, un po' tu... di pazzia, insomma, ci sta sempre. Creso, tu vuoi aggiungere qualcosa? Che ti vedo scalpitante ai microfoni. Una vera eresia, per cui abbiamo tirato fuori di quei gruppi vichinghi con ascia bipenne e chitarra a doppia punta, però il campione secondo noi è quasi riconoscibile, quindi vi sfidiamo quando uscirà il disco a riconoscerli e in caso a dirci se avete capito chi abbiamo distrutto e chi nel futuro si rivolterà nella tomba. Poi ci dicevate prima anche di una imminente mixtape su cui ancora c'è un po' un alone di mistero. Sì, probabilmente uscirà un mixtape, non diciamo di cosa, ma comunque finalmente accontenteremo tutta quella gente che mi distrugge le palle. Dai, perché... faccio un mixtape. Perché voi dovete sapere che Benedetto Ruggero accoglie ogni giorno nel suo giardino qui a San Donà folle di ragazzine urlanti con dei poster degli ABCD che chiedono un mixtape. Tra l'altro, come facciano a trovarvi? Non si sa, visto che siete incappucciati nella vostra foto che usate notoriamente nel MySpace, che vogliamo ricordare. Vai, basta con sto Facebook, torniamo a MySpace. Dai l'indirizzo, grazie. myspace.com/abcd. Nulla, no, di più, no, semplice. No, ho sbagliato tutto. Ecco. È myspace.com/weareabcd, perché qualcuno se l'aveva già fregato. Nulla di più complicato, allora. We are, per i non anglofoni, è WEARE e poi ABCD, insomma. Quindi weareabcd. Esatto. E su Facebook, sempre / We Are ABCD. Molto più facile di noi. Interviene un altro pezzo scelto da queste due menti che ci accompagnano in questa serata, e abbiamo... Che abbiamo, Alberto? Beh, dillo bene. Il Breakbot con Baby I'm Yours. Vogliamo dire qualcosa di questo ragazzo qui? Favotto, sì. Sì, sì, è un DJ francese, da quanto so io, che dopo un po' di lavori iniziali decide che è bello registrare su Headbanger Records, e per avere un motivo circolare, chi registra anche su Headbanger Records, Justice. Per la felicità di Benedetto e la sua croce. Anche Cassius. Anche Sebastian, volendo. Sì, io tra Sebastian... Ma e Sebastian e Sebastian Tellier sono la stessa identica cosa? Sebastian è un'altra cosa ancora? Sono due lavori completamente diversi. Vedi che non ho mai capito niente. Già faccio fatica a stare al mondo, poi questi hanno anche nomi abbastanza uguali. Sebastian Tellier, tra l'altro, se posso consigliare una canzone, Fantino, credo, non nel senso dell'autista di cavalli, sì, ma proprio di una Fanta piccola. Io ringrazio te, la Fanta piccola, Benedetto Ruggero. No, io direi che anche i video meritano di essere assolutamente sì, da guardare tutti dal primo all'ultimo. Bon, avete finito di interrompermi? Sì. Posso andare tranquillo? Puoi una andare. Tribuna parlamentare. Presento la traccia in maniera molto radiofonica. Questo è il miglior programma su Radio Sherwood 97800, Radio Sandonà 102.2, in onda tutte le settimane. Music for Youth, Breakboot, Baby, I'm Yours. I thought I had it all together, but I was led astray. The day you walked away, you were the clock that was ticking in my home. Changed my state of mind, when love's so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray, all that I would pay. How can I go on when you're falling apart? Love so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby. Baby, I'm Yours, e siamo in conclusione di puntata Music for Youth, Radio Sherwood 97.8, Radio Sondana 102.2. Favotto, finalmente puoi tirare il respiro e non vedermi più per un'altra settimana. Sì, tu contento? In realtà voi dovete sapere che la maggior parte della mia vita viene vissuta in commistione con Daniele Terzariol, purtroppo. Pensate, cioè, purtroppo, Dio, purtroppo ti danno questo. Potrebbe anche capitarti di peggio, per esempio. Certo. Non poter mai ascoltare un pezzo degli ABCD. non so, essere sposato con Marisa Laurito e che mi dà lo slim fast alle 4 del pomeriggio, non so. E come al solito, ma niente carta per fuori, visto che lei si ingozza come non esatto, so cosa. Visto che la polvere l'ha già mangiata tutta lei. Avevamo preso come spunto il fatto che non potevi non sentire la traccia degli ABCD, che sono ospiti in studio con noi questa sera, o barra pomeriggio per tutto il resto dello streaming, e che stiamo per ringraziare. ABCD, H, Benedetto Ruggero e Creso, siate serie per una volta nella vostra esistenza e ricordateci tutti i contatti che volete ricordare. Se vuoi una cintura con le borchie, sì, premi 1. Se vuoi ascoltare una traccia degli ABCD, digita www.myspace.com/weareabcd. Se io ti voglio trovare in Facebook, che cosa faccio? www.facebook.com/weareabcd. Forse era /abcd e basta, l'aveva detto così Creso, vabbè. No. Noi vi diamo questi segnali per creare della confusione tutto questo. Okay, siete okay. Contattabili anche in privé, cioè io vorrei organizzare una serata con Creso, poi te per il ti tengo per il carnevale di febbraio. www.onionagency.com. grazie davvero, veramente grazie davvero. I ragazzi sono anche molto professionali, bisogna dire la verità, mica cialtroni come noi. Li ringraziamo anche perché, sì, infatti, alla fine, voglio dire, prestarsi, vieni qui in questo studio piccolo, devi metterti due labbra magic sotto le ascelle perché dopo 45 minuti qua è fatta, il sudore impazza. Creso viene da Treviso, infatti personalmente ringrazio Creso che viene, sì, da quelli Treviso, ma soprattutto che ha portato una ventata di cultura all'interno di questi, cosa sono, 3-4 metri quadri. Sì, Creso lava i panni in Arno e ci insegna l'italiano a tutti, finalmente. Cultura. Esattamente, si chiama così questa cosa a noi sconosciuta, cultura, per cui segnatela che poi andiamo a dare un occhio su che cosa si tratta, perché io non ne ho la minima idea cosa sia questa cultura. Ci sarà in Wikipedia sicuramente. Qualcuno l'ha vista, chiamatela Raffai a chi l'ha visto, esatto. Sappiateci dire, non vogliamo i soliti mitomani che dentro, ci danno. È dentro lo Slim Fast, me la può vendere panata, allora sì, la conosco. Signori, siamo arrivati alla chiusura di puntata, ma soprattutto io penso che la stiamo per stracciare come non mai. Qui ci sono tutta una serie di sovrastrutture, come le chiamerebbe un buon filosofo marxiano. Oh, stiamo per portare i Coldplay. Favotto, sei contento? Immagino di sì. Sì, alla fine a noi bisogna dire che i Coldplay piacciono. Poi questa cosa è anche condivisa dagli ABCD e da... Oddio, da Creso non lo so. Ma da Benedetto Ruggero... Sì. Noi ci rifacciamo agli antipodi dei Coldplay, quando ancora le tracce erano buone, in posto di X and Y, Viva la Vida and F and All These Friends, perché siamo all'epoca di Parachutes ed era più o meno il 2000. È stato uno dei singoli che probabilmente ha fatto conoscere i Coldplay al mondo e si tratta di Yellow. Ho tirato una linea per te, è gialla. Ed era tutta gialla. Noi vi consigliamo sia quest'album che il successivo, A Rush of Blood to the Head del 2002, dal quale sono state estratte, vabbè, tutti i pezzi che conoscete, Clocks in My Place, God Put a Smile Upon Your Face, eccetera, Amsterdam. Eccetera. Amsterdam, vi prego, ascoltate Amsterdam al minuto 3:30. Io e Favotto solitamente stiamo veramente male, specie se la traccia è ascoltata nella versione live 2003. Veramente della malinconia. E sappiate che per noi nei momenti grigi, questa sera non sembra, ma per Terzariolo è stata veramente una giornata complicata, portare Yellow ci fa proprio stare bene. Eh sì. Benedetto Ruggero, ti ringraziamo per l'appoggio, Creso, a te un po' meno, ci penso io. hai detto che non ti piacciono più di tanto. Grazie ABCD più in generale. No, grazie mille agli ABCD per essere stati con noi. Io per par condicio ringrazio più Creso di Benedetto Ruggero. E siamo così, la bilancia è perfettamente equilibrata. Visto che io ho un particolare affetto nei confronti di Coldplay, ci posso pensare? Certamente. Music for Youth, Radio Sherwood 97-800, Radio San Donà 102.2. Questo è l'estratto, il primo, da Parachutes dell'anno 2000, licenziato per la Parlophone, i Coldplay, Yellow. Saluti a tutti, ci vediamo la prossima settimana. Look at the stars, look how they shine for was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. All the things that you